America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Senator Sanders supported indefinite detention for people facing deportation. La copertina di questa settimana la voglio dedicare alle elezioni americane, perché siamo alla vigilia di importantissimi appuntamenti elettorali. Vi dicevo, forse per Hillary Clinton i dolori che ha sofferto nel Michigan la settimana scorsa, beh, finiranno. Perché? Beh, perché gli ultimi sondaggi degli appuntamenti elettorali che ci saranno questa settimana, domani in Florida, poi in Ohio e in Illinois, danno Hillary in grandissimo vantaggio rispetto a Bernie Sanders. Pensate, in Florida Hillary ha addirittura il 61% delle preferenze contro il 34% di Sanders. In Illinois ha il 51% contro il 45% di Sanders. In Ohio stacca Sanders di 20 punti, 58% contro il 38%. Ecco, credo che se non ci saranno sorprese, come ci sono state peraltro in Michigan, dunque tutto è possibile, per Hillary Clinton potrebbe esserci la quasi garanzia certa, matematica, della nomination alla convention democratica. Ecco, detto questo, ovviamente vi informeremo nel dettaglio sui risultati, però la partita più dura, come sappiamo, non è in campo democratico, ma è in campo repubblicano, dove c'è una crisi vera e propria del partito, c'è una crisi di identità. La base repubblicana sta dicendo alla sua leadership, beh, di aver cambiato umore, di non fidarsi più di coloro che l'hanno guidata finora e di preferire Donald Trump. È un populista che preoccupa la leadership e preoccupa soprattutto influenti repubblicani come i neocon. I neocon hanno una visione degli Stati Uniti molto importante, con una missione per portare la democrazia nel mondo. Le democrazie non si fanno guerra fra di loro, dunque occorre portare avanti questa battaglia per evitare una radicalizzazione a livello globale. E Donald Trump dice no, assolutamente, noi ce ne stiamo a casa, non siamo più il gendarme del mondo, che i problemi del mondo, delle regioni, delle nazioni, dei popoli siano risolti direttamente da coloro che li hanno causati o che ci si trovano in mezzo. Ecco, Donald Trump è riuscito a cavalcare quest'onda populista, e però ha avuto un problema. Sentiamo. 2016, GOP frontrunner Donald Trump canceled a campaign rally in Chicago. Ecco, c'è stata la violenza, una violenza contro Donald Trump. Ci sono stati dei dimostranti che hanno cercato di impedire a Donald Trump di parlare. Donald Trump ha capitalizzato su questo, però qualche giorno fa chi mi ascolta ricorderà che ho citato un articolo di Thomas Friedman in cui diceva che uno dei rischi, dei problemi di Trump poteva essere quello di degenerazione in atti di violenza, perché insomma Trump ispira un pochino atti di violenza. Ecco, questo purtroppo è successo nella realtà, ma non è successo nel modo in cui lo immaginava Friedman. È successo in realtà in un modo che forse potrebbe avvantaggiare Trump. Well, I came to years ago, Sean, and we have... Comunque sia, Trump si trova in vantaggio in Florida. Florida è lo stato di Marco Rubio, senatore della Florida, eppure lo sta battendo per una quindicina di punti percentuali, secondo una media dei sondaggi. Tra l'altro in Florida si assegnano 99 delegati e chi vince piglia tutto. L'unplan per Trump potrebbe esserci anche in Illinois, e chissà che non ce la faccia anche in Ohio, perché John Kasich, che è il governatore dell'Ohio, si trova in vantaggio, ma si trova a pochi punti di distanza. Una settimana dunque questa che potrebbe incoronare definitivamente Hillary Clinton e portare in avanti con un distacco incolmabile colui che non sarebbe mai potuto diventare non solo presidente, ma addirittura il candidato del Partito Repubblicano, secondo la stragrande maggioranza dei commentatori, appena pochi mesi fa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la Florida diventa davvero lo stato chiave per queste primarie, dunque vi propongo Florida dei Blue Rodeo. mother owned a trailer home on West Broward past A1A. And to beat the north wind, we took a spin to that tin can by the sea. Well, I thought she was mine, but she was just passing time. She even passed out of town in my car. And left me with Nat King Cole and a Silver Star. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.